spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Lorenzo, la maturità è un Big Bang? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, sì, ciao, sì, lo è, in qualche modo lo è, insomma, è una notte, Venditti ha beccato proprio il titolo della canzone. La notte prima degli esami ha beccato proprio una sensazione forte. La notte prima degli esami c'è l'attesa, strana, ti senti all'inizio di qualcosa, no? E alla fine di qualcosa, insomma, è un momento di passaggio grosso, sì, grosso. Poi la mattina degli esami, quando io mi ricordo l'ho fatta al Malpighi, al liceo scientifico a Roma, proprio salire le scale, andare lì vestiti da estate, si arriva, insomma c'è tutto un altro mondo, ti senti fuori dalla scuola, no? Ti ormai senti già fuori dalla scuola, ti sembra già un posto che non ti appartiene più, no? Ti senti già distante in qualche modo, dopo averci passato magari 5 anni a percorrere sempre quegli stessi spazi, poi ti ritrovi quel giorno lì, per esempio, seduto in un posto dove non sei mai stato, no? Della scuola. È vero, che ti guardi anche di fianco, cioè non c'è comunque il tuo compagno di banco usuale. In corridoio, mi ricordo. Anch'io, è vero. Infatti, in molti, no? Hanno fatto esame in corridoio, tutta questa fila di banchi, no? Poi, insomma, noi l'abbiamo fatto un po' di anni fa, per cui non c'erano telefonini, non c'era... Oggi non so come funziona, probabilmente la tecnologia ci sarà tutti molto più blindati, sarà tutto molto più... non so come funziona, puoi portare il telefono. Te li sequestrano. Poi, insomma, l'ultima novità sono queste applicazioni poi per iPhone che ti aiutano per la maturità, però non puoi portare assolutamente nulla dentro le classi. Però qualche scappatoio. No, me lo chiedo perché noi mi ricordo che giravano almeno 50 titoli di temi, no? Poi qualcuno la sera prima telefonò dicendo ce l'ho, eccoli qua, e invece non c'entravano niente, no? Perlomeno uno mi sembra di quelli che però non feci, non mi ricordo neanche che tema feci. Sì, neanch'io. Però io ho un ricordo come comunque un momento anche leggero, cioè nel senso che tutti cercavano di portare pesantezza, è un esame, quindi comunque ti devi preparare. No, bello, anche per me è la stessa cosa, non ho un ricordo, ho un ricordo di... è una cosa bella, ho lo stesso ricordo che ho in genere legato ai riti di passaggio importanti, a un debutto, al matrimonio addirittura quasi, no? Cioè a quelle cose importanti che comunque sono anche viste dagli altri come qualcosa di importante, quindi ti proiettano un po' addosso questa sensazione, la mamma la mattina che ti fa una colazione speciale, no? E ti saluta come non ti ha mai salutato andando a scuola, no? Pensa che io sono andato in bicicletta e sono caduto quella mattina. Questa, vabbè. No, io ero un motorino che mi aveva prestato mio fratello, per cui era estate, per cui arrivai lì col motorino. Però proprio mi ricordo, insomma, è una notte speciale ed è un giorno speciale. Mm-hmm. Anche se a me della scuola non è che mi fregasse granché, io in realtà non vedevo di finirla. Perché avevo già iniziato a lavorare come DJ, per cui insomma la scuola la vivevo più come una roba da buttarmi alle spalle che come un momento, cioè non avevo neanche grosse idee rispetto al mio futuro di studente, e quindi insomma volevo togliermela un po' dalle palle, insomma, l'esame. Ma ti sentivi maturo? Cioè questo concetto di maturo che alla fine è un parolone? No, ma quello, sai, non lo so, no? Io mi ricordo i professori mi dissero: guarda Lorenzo, tu secondo me vai bene, per cui non ti preoccupare, magari non sarà difficile che prenderai un voto alto, però perché hai tutti 6, 6 e mezzo, 7, per cui non ci spero, per cui però è difficile anche che ti bocino, a meno che proprio non fai un disastro. E quindi io ero e mi dissero preparati una cosa benissimo e il resto fai, insomma, vedi un po', dai un'occhiata. Infatti io feci così, mi preparai molto bene con l'inglese e feci un esame strepitoso di orale, in particolare l'inglese, fece un esame, perché questa professoressa lì fuori, come si chiamano, fuori di cioè, la commissione esterna, la commissaria esterna, disse: parlami di quello che vuoi. E io gli parlai in inglese di Quelli della notte di Renzo Alba. Fantastico. Perché era in quel momento, era il programma che io guardavo tutte le sere, no? Mi piaceva tantissimo. Allora gli raccontai questo programma in inglese, lei, che lo vedeva anche lei evidentemente, gli piacque molto e mi disse: ti do il massimo dei voti, hai fatto un esame eccezionale. E quindi insomma lì, poi dopo quell'esame lì ero tranquillo. Infatti poi non ho preso un grosso voto, ho preso 44 io. Che però è un voto giusto, no? Eh sì, è lì. Quindi, non crea troppe aspettative. Bravo, il voto... Perché 36 è proprio... No, se avessi preso 36, secondo me, ci sarei anche rimasto un po' male, no? Sì, sì, sì. Anche perché uno ha consapevolezza, no, del valore, sì, poi sono numeri. Se avessi preso più di 50, ci sarei rimasto male uguale. Ok. Avrei detto, no, dai, no, non è giusto. Il 44 è proprio preciso. È il tuo. Comunque, Lorenzo, domani c'è la prova di italiano. Magari autorizzi comunque gli studenti a citare qualche tuo testo, insomma, i tuoi testi. Sì, potrebbero essere. Uno dei temi sarà sui miei testi. Sai che sarà il più grande spettacolo dopo il Big Bang. È una cagata o è un capolavoro? Questo è il primo dei tre temi. E poi vai, trova i riferimenti di. Penso positivo, sì. Quello è nella letteratura italiana. No, non lo so, sì, autorizzo tutto io, ci mancherebbe altro. Davvero, Lorenzo, grazie davvero per aver grazie Federico, un vissuto tutti, con noi. Ricordiamo che anche tu sei lì con un bel esame, perché hai gli stadi che ti aspettano, insomma. Sì, sì, io guarda, sto iniziando le prove della parte estiva e il 29 partiamo da Bari, poi facciamo tutta l'Italia. Anche quella è insomma una bella prova, credo. Beh, ma poi per me veramente, poi insomma, non è che l'ho detto io che gli esami non finiscono mai, questo lo dico anche ai ragazzi che domani inizieranno questi esami. Ragazzi, quella è una delle frasi più vere che troverete in tutta la vostra vita. L'ha detto Edoardo Di Filippo, mi sembra, no? Ed è uno stimolo, no? A fare sempre meglio, a crederci, a provarci. No, ma meno male, se non ci fossero gli esami, ragazzi, la vita sarebbe un piattume. Cioè, l'esame, ti capito, ti mette, ti dice dove sei in quel momento. Esatto, ti dice, dai, fai un altro passo e buttati. Esatto. Lorenzo, grazie davvero. Un abbraccio a tutti, ciao, ciao. Ciao. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te, io e te, che ci abbracciamo forte, io e te, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo controvento, io e te, che stiamo in movimento, io e te, che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi, in mezzo a questa strada, io e te, io e te, io e te, oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football, altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, che abbiamo fatto a pugni, io e te, fino a volersi bene, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente, io e te, che attraversiamo il chitarra senza saper suonare. È bello vivere anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore. Son sicurissimo, amore.